fatia argene. Oh, come giunge opportuno! E che vi turba? Ascolta, il padre parla, e timore gelan sul labbro i detti. Cara semplicità, quanto malletti! Il mio sogno io dirò! M'apparse il padre, in fra i nubi avvolto, agile al modo, illuminato al volto. Sogno non fu, ma il genitore stesso, che nella fronte avea la nota maestà. Cara semplicità, orci interpreta il sogno. L'alma rasserenate, il genitore che dall'orbe terre sciolto alle penne, o fra le stelle alberga, o vicino alle stelle il seggio ottenne. Dunque il pianto si lasci e il riso torni, né più il sol vi conduca mesti giorni.